Attenzione, quello che ascolterete per i prossimi 60 minuti potrebbe urtare la vostra sensibilità. Se siete soggetti privi di umorismo, sarcasmo e autoironia, vi consigliamo di cambiare frequenza o di ascoltarci in presenza di qualcuno estremamente paziente da spiegarvi che vi stiamo prendendo per il culo. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We come and rapper every time. We come and rapper every time. Hey, hey, hey, hey. We come and rapper every time. Sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa, bentornati e bentornate a Io te l'avevo detto. E allora, cari compagne, cari compagni, di nuovo qui. Ciao, ciao. Dalle strade mezze fredde e mezze no, in una giornata assolata di Roma, eccoci di nuovo qua, direttamente da Via dei Volsci, Radio Onda Rossa. Oh yeah. Sempre noi, un ringraziamento speciale al pubblico in sala che salutiamo. Esatto, e anche a tutte e tutti quelli che ieri sono accorsi e accorse alla Peri Roar, che è stato fantastico e meraviglioso. Fantastici e fantastici. È stato tutto e bello, tutto bello, bellissimo, da ripetere, da ripetere. Sì, da ripetere, e soprattutto da ripetere anche di diretta dopo, perché vi siamo divertiti, abbiamo fatto un po' di baldoria, come non se ne faceva da un po'. E insomma, visto che adesso andiamo incontro a questi quattro mesi, pandemicamente parlando, dove ci faranno sfogare. Si scarpita e si vede, insomma, la gente c'ha voglia e gli prende bene a farsi due zompetti, quindi venire a sostenere la radio è sempre un modo per farseli, quindi bravi e bravi che siete venuti, grazie ancora, bravo Giacomo che ci ha ricordato. Yes. E ricordiamo pure che facciamo sta roba perché la radio campa, esatto, grazie alla sottoscrizione vostra, insomma, no? Quindi e soprattutto il caro bollette vale anche per noi, perché assolutamente, assolutamente, infatti se prima ci avevamo, se dovevamo fare il 30 per 1000, quest'anno dobbiamo fare il 50, 50 per 1000, almeno 50 per 1000, almeno 50, cioè voglio dire, se ci avevamo 30.000 euro di spese fino all'anno scorso, quest'anno almeno sono raddoppiate. Io mo non dico il doppio, e ricordiamo insomma che per noi qui non è tutto free, no? No, anzi, ha dei costi, no, non è niente, esatto. Non ce l'abbiamo niente di free, cioè, appunto, praticamente l'unica cosa free è quella che offriamo, cioè, nel senso, tutto quanto gratis quello che sentite, esatto. È tutto quanto gratis quello che si fanno, sente, si sente, che fanno, sì, che fanno i redattori e le redattrici, però insomma, ma essere questo costa, ecco, insomma, sì, c'è un certo costo, vabbè, insomma, visto che comunque le siamo nostre vite private, ecco il costo di tutto questo. E in tutto ciò noi non ci lamentiamo mai, assolutamente, anche perché senza questi piccolissimi sacrifici per noi, al di là degli scherzi, insomma, questa radio, insomma, faticherebbe al di là, senza i sacrifici di tutte e tutti quelli che la compongono, esatto. Quindi insomma, a brevissimo di incrementare questi impegni anche da parte di tutte e tutti quelli che ci ascoltano, perché ricordiamo che la radio appunto è un organismo bello, aperto, insomma, venite, affacciatevi qui a Via dei Volsci 56, anche perché insomma chi è di Roma e ci ascolta sa che cos'è Via dei Volsci, sa dell'importanza dei Volsci e tutta questa situazione, ma magari chi non è di Roma ne ha solo sentito parlare, e potete venire qua a toccare con mano, diciamo, la storia del movimento. Sì, e oltre a venire qua e a toccare con mano, insomma, potete pure venire qua alla Ciacce du Spicci. Tra poco ripartirà il 30. Quello, infatti. Tra poco riparte il 30 per 1000, che appunto, come diceva, esatto, prima Simone, è quella cosa lì che facciamo ogni anno per sostenere la radio. Quest'anno ripartirà, diciamo che l'anno è lungo, noi già stiamo sotto coi conti, quindi a brevissimo ripartirà, quindi il 30 per 1000 tenete appizzate le orecchie. E soprattutto mano al portafoglio, tenete vicini i portafogli perché saranno quelli, insomma, che un'altra più, occasione che avete per sostenere la radio è un'altra iniziativa che facciamo al Forte, la facciamo giovedì prossimo, c'è una presentazione con la Baraldini e con un professore di un'università di Stoccolma, e insomma siete tutti e tutte invitate, quindi dopo passeremo anche lo spottino dalle 18 il Forte vi accoglierà, dalle 21 inizierà la presentazione, 21 puntuali e niente, va bene, banda alle ciance, cominciamo con Io te l'avevo detto del 20 marzo 2022, quando sono le 18:14 forse è qua il caso che cominciamo la puntata. Direi che iniziamo presentando l'argomento clou, il tema. Allora, visto che prima Matteo diceva che c'erano, appunto, era tempo di no, la situazione andava man mano migliorando per noi qui, parleremo e c'era chi voleva, insomma, danzare e ballare, e tutto sta andando verso quella direzione, ma ci sono altre, come diciamo, esatto, parleremo del triste destino del generale Figliuolo, che non si sa che fine faramo, che è finita la pandemia, poverino. Beh, sicuramente che qualcosa succederà? Da fare lo troverà, che succede? Ma sicuramente no, glielo troveremo da fare. No, non era questo l'obiettivo, chissà fa come Conte, vabbè, comunque dai, se fa un partito suo, se fa è capace, è possibile, il Figliuolo dei potrebbe essere un'idea. Comunque non sappiamo le sorti del Figliuolo, non ce ne preoccupiamo più di tanto, ma ci preoccupiamo di quello che sta succedendo un po' più là. Come ci siamo chiesti la precedente puntata, ci chiederemo in questa puntata cosa sta succedendo in questo primo mese di guerra. Cosa è successo? Più che cosa sta succedendo, insomma, proprio cosa è successo, perché scherzando, insomma, cioè, anzi, ridendo zero e scherzando ancora di meno, perché insomma, come dice Simone, due settimane fa ci abbiamo provato, ma siamo gli unici che ci ridiamo, sì, ma di questa, no, ma nemmeno non ci abbiamo riso, insomma, abbiamo, siamo riusciti, no, infatti no. Sì, no. Però insomma, come dire, siamo tra quelli che stanno facendo questi tipi di riflessioni e le facciamo qui insieme a voi. Quindi, come due settimane fa, 06 49 17 50 per intervenire qui in diretta, e parleremo appunto di questo primo mese di guerra e di quello che è stato. Come lo faremo? Lo scoprirete solamente restando all'ascolto degli 87.9 di Radio Onda Rossa, perché adesso noi ci andiamo a sentire subito. Subito. Un pezzone che non lo so, mettiamo Ziggy, questo è un messaggio chiaro ai Ziggy, nostri Ziggy. Governanti, questa è proprio una cosa leggera. Ma chi te frega, penso alla sorpresa. Some people live in their burdens, and some 87.9, sempre Radio Onda Rossa, torniamo in voce. Ce la sentimo poi, a parte questa. Alle 18.20 torniamo in voce e abbiamo fatto sentire una robetta niente male, in effetti. Groove. Siete sempre all'ascolto di Radio Detto, torniamo appunto in voce e cominciamo la puntata odierna. Abbiamo ricevuto qui in sede a Via dei Volsci, oltre a delle sottoscrizioni varie, anche un regalo particolare, compagni. Come lo potremmo definire? Una pennetta USB. Tu la guardi come una pennetta USB, però in effetti non c'è nessun attacco da nessuna parte. Cioè, tipo, è una cosa strana. Potrebbe essere olografico, chi lo sa. Esatto. Potrebbe essere quasi una cosa. Sembra che c'è questo pulsante. Proviamo a toccarlo insieme. Questo pulsante. Sentiamo che succede. Sopra c'è questa scritta qua che parla di un libro di storia. Sembra, però non è un libro, è più un racconto. Sentiamo di che cosa. Vediamo. Si tratta. All'inizio del 2022 l'Europa era una polveriera pronta a esplodere. L'Ucraina, una nazione che segnava il confine tra Russia ed Europa, divenne terreno di scontro tra le grandi potenze occidentali e il blocco orientale. Sul finire di febbraio del 22, la Russia, soverchiando l'ordine mondiale all'epoca vigente, invase unilateralmente l'Ucraina, sfruttando precedenti tensioni interne. Nonostante un primo periodo di tentennamenti durato circa un mese, l'Occidente, che all'epoca era organizzato militarmente sotto l'egida di un organismo sovranazionale chiamato NATO, si trovò costretto a difendere l'Ucraina, scatenando contro la nuova Unione Sovietica ex Russia l'intera forza militare occidentale, dando il via alla Terza Guerra Mondiale. Incredibile questo contributo che ci arriva in direttissima, ragazzi. Mi sono venuto un attimo di brividi, spiazzante, direi. Aspetta, capiamoci. Cioè, a me io vi dico la verità, io già avevo un'impressione, però mi sembra proprio un racconto dal futuro. Cioè, sembra proprio come se fosse. Cioè, parlano di Terza Guerra Mondiale. Terza Guerra Mondiale. Beh, effettivamente se la guardiamo un attimo in maniera un po' più oggettiva, la situazione potrebbe essere simile a quella che si legge su. Ci sta. C'è una moto che passa fuori, Giacomo. Ah, ecco, sentivo questo rumore terrificante. A leggerla bene la situazione sembra quasi di stare su un libro di storia, insomma. Sì, no, in effetti sembrerebbe proprio una lezione di storia che ci è stata recapitata dal futuro, proprio noi, io te l'ho detto, una cosa incredibile. Io sarei un po' preoccupato, effettivamente. Effettivamente sembrerebbe che a quasi un mese dall'inizio del conflitto in Ucraina, anche se poi in realtà, come abbiamo anche detto la settimana scorsa, è iniziato nel 2014, quindi un bel po' di tempo fa, però insomma sembrerebbe quasi che siamo a una svolta, no? Potrebbe... Cioè, tu praticamente mi stai dicendo che siamo a questo sono i prodromi di una guerra mondiale, cioè no, siamo proprio no, lì. Ti sto dicendo che siamo le fasi iniziali del conflitto o le fasi finali di un conflitto che poteva scaturire la terza guerra mondiale. Beh, diciamo o all'inizio o alla fine di qualcosa, comunque siamo. Questa no? è la frase che ha caratterizzato l'intervento di Zelensky di poco fa, diciamo, no? Quella, ah. Se non interverrete, se non facciamo qualcosa, sarà terza. Se saltano, diciamo, ah. i trattati, sarà terza Ezio. Guerra mondiale. Quindi andiamo avanti così a minacce proprio. Andiamo avanti andiamo più che a minacce. Ma lui è un po' che fa usa questa metodologia della. No, allora, perché appunto tu forse cioè, fai riferimento a quello che è successo oggi, cioè Zelensky che esatto, in, esatto, in videoconferenza che... col sì. Parlamento israeliano esatto. diciamo ha cavalcato insomma un che po' che noi questa... eravamo qui insomma siamo... abbiamo visto diciamogli anche come per vie no, attraverso il televisore no? del di facciamo... nostri vicini del rimpettaio dei nostri dirimpettai che stavano guardando Rai News anche noi ci siamo accorti che erano un collegamento con Zelensky loro proprio sì, i ci siamo accorti che insomma stavano si stava svolgendo questa situazione e siamo andati a sentire che è successo praticamente Zelensky come ha fatto in ogni parlamento europeo o occidentale in cui ha avuto modo di parlare ha cavalcato il tema diciamo più diciamo più scomodo in base al posto dove ha parlato, cioè con Israele, bravo, con cioè, Israele, che caratterizza lì, questi con Israele ruoli, ha detto cioè, guardate, quali. Con Israele ha detto guardate che Putin intende portare avanti una soluzione finale e quindi voi sperando, sapete esatto. che cosa significa. E poi c'è un'altra cosa con Israele perché come sappiamo tutte e tutti Israele o come alcuni di voi sapranno è detentrice di questo sistema di protezione missilistico. L'Iron Dome che è il sistema che Israele utilizza contro i razzetti palestinesi che gli arrivano dalla striscia di Gaza e Zelensky ha più volte fatto richiesta a Israele di questo sistema missilistico proprio in funzione di quel terrore che esatto, come popolo detto, loro voi conoscete, no? esatto, conoscete il terrore che viene dall'alto e conoscete. Quindi sapete cos'è e che aiutateci. Cosa significa il valore della difesa di, esatto, no? aiutate gli ebrei ucraini aiutate gli ucraini perché appunto però insomma, questa è una modalità ebreo. Poi c'è stata la modalità cioè poi, una modalità Zelensky per ogni in paese Inghilterra, esatto, in Inghilterra ha ricordato esatto. la grande vittoria di Churchill contro il nazismo esatto. no? E quindi poi è andato dov'è che è venuto che è stato pure il Parlamento italiano italiano il Parlamento italiano no il Parlamento italiano ancora no sì. non ce l'abbiamo ancora avuto in Italia ma guarda quando è che ha sollevato il pugno poi tra l'altro e non era una roba europea comunque Europa. Lui è molto bravo per dire questo lui è molto bravo a comunicare a tentare di suscitare di toccare la pancia di chi l'ascolta il dolore di quel popolo esatto, che poi sfrutta questo lui. Comunque se Zelensky è bravo a fare sta roba qua pure noi te l'avevo detto non scherziamo tant'è infatti che due settimane fa abbiamo parlato non so se vi ricordate se non vi ricordate potete andare a vedere sul sito abbiamo parlato con un compagno con Giancarlo che su per giù ci aveva un po' pronosticato e quindi automaticamente ci aveva fatto fare un io te l'avevo dettata che insomma quello che sta succedendo oggi diciamo che ce l'avevo un po' anticipato no? ossia che piano piano si sarebbe spostato il conflitto sempre di più verso Odessa e che piano piano si sarebbe isolata quella parte lì esatto quindi... perché magari facciamo un po' il punto su quello che sta succedendo certo questa qua, livello... queste qua sono tutte quante le cose che vedremo con calma un po' più avanti però insomma anche questa qua è una cosa che insomma ci tenevamo a dire perché comunque sempre sul pezzo grazie alla redazione della radio che ci aiuta infatti sta sul pezzo che è per questo che dovete sottoscrivere ricordate per di esatto, nuovo anche per questo, anche per sì, questo. Infatti, probabilmente tu fai riferimento alla situazione che sta sul campo adesso in Ucraina noi ovviamente non ci dilungheremo e non parleremo a fondo dello stato bellico della situazione però comunque diremo anche le nostre considerazioni geopolitiche magari un po' più avanti su quello che è successo in questo primo mese perché come abbiamo sentito insomma e come dicevamo anche due settimane fa all'inizio nessuno ti aspettava niente di tutto quanto questo poi ci siamo ritrovati in mezzo adesso sembra quasi che la situazione continui o a degenerare oppure che possa fermarsi un po', però detto ciò, insomma, è sempre incognita. Noi abbiamo stiamo provando a guardare la cosa da un po' più lontano, e quindi sempre 0649 1750 per intervenire. Sì, chiamateci, esatto, perché insomma non è l'assemblea radiofonica di questa mattina, però è importante che ci diate il vostro punto di vista. Guardate, c'ho il flash proprio della notizia di Zelensky, che in realtà non è che dice proprio alla terza guerra, sarà la terza guerra mondiale, no, afferma: se non si ferma la Russia ora, se non la si punisce ora, gli altri aggressori nel mondo inizieranno altre guerre. Questo è un po' il senso. Sì, ma infatti lui questo lo dice sempre, lui continua a segue su questa linea della richiesta dell'intervento della no fly zone, dell'istituzione appunto di questa famigerata no fly zone. Lo dico semplicemente perché magari chi ci sta all'ascolto, io te l'avevo detto, probabilmente per tutto il resto della settimana o non c'ha modo, non c'ha tempo, magari non c'ha neanche voglia di andarsi ad approfondire tutte queste cose, invece la domenica spaparanzato sul divano. Beh, infatti sì, facciamola un attimo, 10 minuti di... No, ma più che altro stavamo dicendo appunto che lui costantemente, Zelensky, appunto il presidente dell'Ucraina, continua a spingere sulla richiesta di questo scudo della no-fly zone sull'Ucraina, però questo appunto scatenerebbe le ire funeste di Putin in maniera irreversibile. È proprio questo il rischio, cioè che si corra ai ripari, che la NATO corra in aiuto dell'Ucraina, e che quindi si intervenga massicciamente tutti contro la Russia e quindi la Russia contro tutti. Che è un po' quello che abbiamo voluto trattare con il contributo del futuro che abbiamo sentito, no? Perché comunque appunto, esatto, se tra 100 anni ci trovassimo a leggere di questo primo mese di conflitto in Ucraina, insomma, quello che si leggerebbe sarebbe una cosa veramente fuori dal normale. Più avanti vedremo anche qualcosa che riguarda la transizione ecologica, come è stato anche accennato stamattina in una corrispondenza di questa roba qua, e l'implicazione in questa guerra, in questo conflitto. Però possiamo dire già da subito, sì, insomma, che le bollette saranno alzate già dal 1 gennaio, la guerra è partita appunto il 23, quindi diciamo la narrazione che c'è all'interno del panorama dell'informazione è abbastanza rarefatta. Personalmente trovo una delle cose più faticose, che quindi mi affaticano di più seguire questa roba qua, proprio per il modo in cui è trattata, no? Perché è unilaterale, si casca nella cosa che se stai con Putin o stai con la NATO, non esistono mezze misure. 2 settimane fa abbiamo fatto una bella puntata su quanto la NATO possa puzzare. Sì. E soprattutto magari oggi piano piano affronteremo in maniera un po' più dettagliata, sì, anche perché un pochino puzza, no? Perché è normale, come abbiamo detto diverse volte, che far parte di un meccanismo del genere comunque che comporta appunto stare ad un gioco tra virgolette, perché non è un gioco come stiamo vedendo soprattutto in questo periodo, perché quello che potrebbe essere catalogato così in realtà è fatto sulla vita e sulle pelle di tanti e di tante che già non se la passano bene, perché ricordiamo che quelle zone lì, insomma, sono già in tempi non di guerra, zone abbastanza colpite da drammi che affliggono la geopolitica europea, e adesso ancora peggio. Quindi piano piano oggi magari spulciamo un po' di questa robetta. Sì, qua. Infatti non è tanto robetta effettivamente, la robona, però vabbè, la questione è molto No, più... perché sai, uno dice è nato puzza. No, certo. E invece però... piano piano adesso ci mettiamo. Diciamo che la questione attualmente sul campo è vicina a una sembrerebbe vicina a una possibile soluzione, insomma. Guarda, in termini in assoluti in realtà c'è un flescetto di ieri che dice, scusa Giacomo, flescetto? Sì, di Putin, che dice che comunque mette quattro condizioni per la per la resa, che sono basate su neutralità, disarmo, denazificazione e l'utilizzo della lingua russa senza problemi. Sì, infatti, è tra l'altro sulle, appunto, dicevo che sulle basi del diciamo della diplomazia tra Russia e Ucraina, da parte della Russia ci sarebbe anche la totale indipendenza della Crimea, cioè l'allontanamento appunto della Crimea dall'Ucraina, e quindi l'ingresso nella federazione, come già dal 2014, però insomma la Russia ne richiede l'ufficializzazione, l'indipendenza appunto del Donbass. E quindi la soluzione dove sarebbe? Che attualmente si sta combattendo in maniera più forte nella zona di Mariupol. La zona di Mariupol è a sud dell'Ucraina ed è, diciamo, una zona di collegamento tra il Donbass e la Crimea. Insomma, ne abbiamo parlato approfonditamente anche questa mattina. E diciamo che sarebbe l'ultimo pezzetto che manca per... E dopo c'è ancora un altro pezzetto, diciamo che questo di Mariupol, questo, no? Di Mariupol è l'ultimo pezzo, che il pezzo che unisce appunto la Crimea e il Donbass. E poi più in là, quindi più verso l'Europa, più ad ovest, c'è Odessa. Odessa è uno dei porti più importanti d'Europa in assoluto, e sembrerebbe, questa mattina appunto dalla corrispondenza dall'Ucraina ci dicevano appunto che Putin è assolutamente convinto di dover arrivare fino ad Odessa, e così da chiudere anche poca resistenza, sembra anche questa cosa qua. Insomma, la resistenza ucraina è, insomma, è una cosa, un'incognita, però insomma vuole arrivare fino ad Odessa, così da chiudere completamente l'ingresso, lo sbocco al mare da parte dell'Ucraina, ed avere il controllo anche quindi dei commerci con la Turchia e tutto il resto che sta a sud dell'Ucraina. Perché è importante per noi quantomeno sottolineare quanto appunto questi commerci che possono sembrare appunto lo scambio di pellicce, no, qua stiamo a parlare invece di una guerra che si sta sviluppando, che è partita, è stata progettata quasi sugli import e export di energie, soprattutto nella fattispecie stiamo parlando di gas, perché ricordiamo che con l'inizio della transizione ecologica del PNRR e di tutta quanta questa roba qua sono state modificate un bel po', insomma, un bel po' tanti di quelli che erano gli accordi che sono andati avanti per decenni, e tanti di questi accordi riguardano molti, quasi tutti, la Russia, che è, insomma, è abbastanza implicata in questa faccenda. Quindi magari ci andiamo a sentire un pezzo e poi torniamo sempre qua su 87.9 di Radio Onda Rossa. Oh yeah. E dagli forte, ci andiamo a sentire System of a Down, Protect the Land, non so se leggerla in italiano o in inglese, mi è venuta una cosa mista, quindi dai, a tra poco. We'll be right back. Some were forced to foreign lands. Some would lay dead on the sand. Would you stay? Sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa, che sempre, sempre io te l'avevo detto, e dai forte, sono le 18.41, quindi abbiamo recuperato il perfetto ritardo domenicale della nostra trasmissione, quindi torniamo in voce e quindi mentre che stavamo ascoltando questo, questo pezzo che insomma è stato il pezzo della reunion fatta dai System l'anno scorso proprio per denunciare l'uso dei droni da parte dei turchi verso gli armeni, insomma torniamo in voce Ma scusa, ma non erano buoni i turchi? Non so quelli che devono fare... I droni sono buoni al sugo. Ah, buoni. Anche droni. Un po' fritti. Sugo dei droni, altro che sugo dei granchi. Sugo dei droni, meglio, no? No, insomma, no, la Turchia che tra l'altro appunto è particolarmente coinvolta in questa situazione ucraina, russo-ucraina. A breve, insomma, sì, diventerà una delle forze, diciamo, determinanti. Sì, perché certo intanto perché è il secondo esercito più grande della NATO. Appunto fa parte della NATO, però continua a essere uno dei partner strategici della Russia. Fuori dall'UE, poi, se non sbaglio, no? Sì, però continua appunto a essere un partner potentissimo della Russia, con cui scambia, insomma, soldi per armi. Comunque, mentre sono interessato, però, appunto, a questo che stavamo sentendo prima, al contributo che ci è arrivato dallo spazio, esatto, dal futuro. Perché mentre sentiamo appunto questa canzone, abbiamo smanettato un altro con questa Geggio che ci è arrivato, e è partito un altro audio che abbiamo bloccato, che forse riusciamo a farvi risentire di nuovo. Quindi, vediamo un attimo se riesce a partire l'audio. Il pericolo nucleare. Eccolo. Fino a quel periodo vigeva una sorta di pace apparente, retta dalla reciproca deterrenza sulle armi atomiche. Infatti sia la NUS, la nuova Unione Sovietica, che l'ex NATO disponevano di ampio arsenale atomico, pronto a distruggere l'intero pianeta in pochi attimi. Nei primi giorni del conflitto si susseguirono lunghi incontri e vertici tra ministri e capi di Stato, resi vani dall'irruenza soverchiante di Putin, l'allora capo della nuova Unione Sovietica. L'episodio dell'occupazione militare in Ucraina della più grande centrale atomica d'Europa da parte dell'armata russa fu la scintilla che accese definitivamente le mai sopite tensioni di quell'area. Subito l'Occidente corse ai ripari, gli stati della NATO furono costretti a mobilitare ingenti risorse belliche accumulate in decenni di pace sapientemente esportata in tutto il globo. Sempre più, mamma mia, una cosa da brividi, una cosa da brividi. No, quindi sì, altro... ricordiamo innanzitutto agli ascoltatori e alle ascoltatrici che vi abbiamo fatto sentire un contributo dal futuro, cioè sembra per forza arrivato dal futuro, perché questo parla di ste robe qui, effettivamente parla di un coinvolgimento insolito della NATO. Cioè, dice che questo addirittura la chiama ex NATO addirittura. Minchia, ma dove andremo a finire? Comunque questa cosa mi ha fatto un attimo riflettere su una questione, questo contributo mi ha fatto un attimo riflettere. Però effettivamente ci stavamo pensando pure prima. si è portati a credere che un conflitto di scala globale sia del tutto improbabile. O meglio, cosa voglio dire? È improbabile, ci viene difficile pensare che la guerra possa arrivare qui in Occidente, no? E che questo scenario si possa allargare in Occidente. Dice: non succederà, perché se succede una guerra di questo tipo sarà una guerra nucleare. Cioè, questo diciamo, le grandi potenze non si scontrano, non si potranno scontrare mai, perché se si scontreranno sarà l'ultimo scontro che faranno. Io vorrei rileggere un po', cioè, questo contributo dal futuro mi ha dato lo spunto per rileggerla un po' questa visione, perché secondo me non è tanto una questione di quanto è probabile il conflitto mondiale, perché il conflitto quanto è probabile il conflitto termonucleare, perché il conflitto termonucleare non ci sarà, questo lo sappiamo perfettamente, però ciò non esclude, a mio avviso, che un conflitto di scala globale possa comunque essere realistico. Cioè, io mi preoccuperei molto, sono molto preoccupato, molto preoccupato realisticamente, ma non perché dico oddio domani arriva la guerra in Italia, no, sono preoccupato perché siamo tutti trascinabili in una guerra mondiale, anche se non nucleare. Questa è la cosa drammatica, perché la deterrenza nucleare significa questo, cioè si annulla il potere nucleare, il pericolo nucleare si annulla, perché se la Russia spara, facciamo un passo indietro, perché sotto questo punto di vista bisogna un pochino, appunto, come dicevamo prima, prendere in considerazione diverse cose. Sembra una battuta, però la prima volta che prima salgono i prezzi delle bollette e poi scoppia la guerra. Come dicevamo, la storia va così. Da quando è scoppiato il Covid, da quando è stata la pandemia, sono stati presi dei provvedimenti da parte dei vari governi, dalle banche sono stati fatti centinaia di migliaia di euro, di milioni, non so quanti, cioè adesso mi sfugge, c'ho un lapsus, però quanti soldi sono stati dati ai vari stati per rimettersi al paro, per finalmente stare al paro con quelli che sono i dettagli dell'economia verde, no? Transizione ecologica in tutta quanta Europa. Per un mesetto all'incirca abbiamo pensato che sarebbe stato tutto quanto bellissimo, nel 2021 avremmo avuto l'energia gratis per tutti quanti senza inquinare, è stato bellissimo. E noi invece, io te l'avevo detto già un bel po' di tempo fa, dicevamo adesso sarà bello vedere e cercare di capire, tra virgolette, bello naturalmente, licenza che mi prendo così, capire come metteranno bocca per instaurare il capitalismo all'interno di questi cambiamenti. Non l'avremmo mai detto che sarebbero arrivati, oppure insomma che si sarebbe usata una guerra per dirottare questa roba qua, però insomma è proprio quello che sta succedendo, perché basta immaginare che è stato chiuso il Nord Stream da una parte, dall'altra parte sono stati tagliati i fondi, aumentate le tassazioni sul trasporto del gas dalla Russia, nel frattempo vengono puntati i missili da quella parte là, da parte di tutta quanta la NATO, è stato praticamente, diciamo, inevitabile che si arrivasse a questo punto. Ma infatti questo libro di storia che ci è arrivato, questo contributo del libro di storia è molto, cioè secondo me come dire, c'entra, è molto fazioso, no? Sì, è fazioso, a parte perché? Che è fazioso terribilmente, infatti che basta pensare a quello che dice sulla presa della centrale nucleare più grande d'Europa, che è sita in Ucraina, che è stata presa d'assalto prima dai bombardamenti russi secondo mainstream, e poi occupata, che poi abbiamo avuto paura che ci tagliassero, cioè una cosa ridicola, no? Nel senso, in un frangente in cui dobbiamo dirci e sentirci liberi e libere di dirci che non stiamo né da una parte né da quell'altra, ma che abbiamo un occhio critico su questa cosa qua, è assurdo pensare, insomma, che invece lasciarla in altre mani, quella roba lì, è più sicura, visto comunque la strumentalizzazione anche dei morti che ne fanno in questi conflitti. Ma certo, assolutamente, a noi giustamente non stiamo né da una parte né dall'altra, ma ribadiamo con forza che la NATO puzza, Certo, la NATO, la NATO puzza ed è la causa, ed è la causa di tutte le guerre che si stanno susseguendo, certo, dal 900 ad oggi. Come, come una compagna questa mattina durante questa, come una compagna durante l'assemblea di questa mattina faceva, sottolineava, è lampante proprio l'intervento del blocco americano e cinese all'interno dei, degli spostamenti di denaro all'interno del blocco nostro, ossia dell'Europa con la Russia. Di questo stiamo a parlare, di soldi. Quando si tratta di questa roba qua, di guerre, di questi personaggi che fanno questa, si tratta sempre di questi, i soldi che ci girano intorno. Ok, questa roba qua finirà probabilmente quando riapriremo i rubinetti. Te l'ho detto, io me ne vado, Nord Stream. Io me ne vado con Kadyrov, me ne vado con i ceceni, raga. Io me ne vado con i ceceni a sparare ai nazisti. Almeno, almeno quelli stanno a fare una cosa buona. Cioè, almeno quelli sicuramente stanno a sparare ai nazisti. Cioè, se si deve fare una guerra, facciamola così. Ammazziamo tutti i nazisti. Tutti. Quelli, pure quelli dell'Illinois. Soprattutto quelli stavo lì, io, soprattutto quelli. Sì, no, perché appunto girano questi video che, insomma, su canali ufficiali di della guerriglia cecena, come dicevamo prima, insomma, dei, dei guerriglieri, dei soldati ceceni di Kadyrov, che è questo amichetto di Putin, questo dittatore ceceno che è stato messo lì appunto da Putin. Perché ricordiamo, appunto, non tralasciamo il fatto che la Russia è comunque una potenza imperialista. Non stiamo parlando di anime candide che amministrano non le sorti niente, del mondo. La Russia di adesso, esatto, non ha nulla a che vedere con, insomma, con, ma nemmeno, ma guarda, non erano anime candide nemmeno i compagni dell'Unione Sovietica, te lo posso garantire. Ma indubbiamente, però, insomma, però per dire che falce e martello, esatto, ecco. Però ecco, insomma, ci stanno questi scontri feroci nelle città, questo, stiamo parlando di Mariupol, leggevamo del teatro di Mariupol, delle atroci diciamo notizie che si sono susseguite, della speculazione che c'è stata sul teatro di Mariupol, perché come abbiamo sentito c'è stata questa grossa speculazione sul fatto che fosse stato bombardato questo teatro pieno di bambini, poi non era vero, poi però la questione comunque resta, perché comunque un bombardamento là, a questo punto nessuno poteva sapere se c'erano dei bambini, insomma la questione è in guerra, appunto, come sappiamo le notizie sono quello che sono, la verità muore, appunto, sì, no, cioè, quindi, tant'è che, insomma, come abbiamo cercato di sottolineare con i contributi che abbiamo stiamo promuovendo oggi, insomma, in questo momento, nel senso, la storia è molto spesso, insomma, di chi la racconta, no? È facile essere unilaterali nella comunicazione e spingere solamente da una parte, d'altronde non è una cosa nuova, allo stesso tempo poi c'è anche infatti per questo è una delle cose che fa più fatica, allo stesso tempo c'è anche il problema che ogni informazione che trapela deve essere comunque sia verificata, perché in un clima come questo in cui le cose escono fuori secondo per secondo, non so se vi ricordate la settimana scorsa, due settimane fa, 30 secondi prima era uscita la notizia quella dell'uso dei bombardieri, no? Una cosa del genere, cosa che poi per fortuna, insomma, è stata almeno per qualche ora rimandata. No, ma infatti, però purtroppo in questo scenario è molto difficile anche la verifica delle fonti stesse, proprio perché, perché esatto, si susseguono continuamente lanci su rilanci da tante fonti poi che, sotto tutti i punti di vista, anche se vai a sentire persone che magari stanno proprio lì sul campo non a raccontare ma a combattere, ma infatti, no? La cosa importante è un attimo che scadi, che ti ritrovi appunto nel nazionalismo quello estremo, ma infatti è veramente una follia purtroppo in questi frangenti. La cosa importante tosta, appunto, è sentire chi come abbiamo fatto questa mattina, appunto, siamo riusciti dopo tante difficoltà a sentire Vezzosi, appunto, che è il freelance che sta che sta lì, è uno dei pochissimi, tra l'altro l'unico, mi sembra che sono lui e un altro italiano, però l'altro è un fotoreporter, è italiano, che sono proprio lì sul territorio. Lui sta a Mariupol, in realtà in questi giorni è a Donetsk, perché appunto Mariupol, come sappiamo, è sotto assedio e manca tutto, quindi però è vicina a Donetsk, vicina, intendiamo, un centinaio di chilometri, un paio d'ore di viaggio e si raggiunge Donetsk, dove la situazione sembrerebbe più tranquilla. E appunto noi abbiamo, se non sbaglio, abbiamo pure un contributo No, adesso ci andiamo a sentire al volo una canzone e, e poi... Però dicevamo appunto che è importante sentire la voce di chi sta lì sul territorio a raccontare questa cosa, ed è anche ammirevole il coraggio di chi continua a farlo. Sì, con 50 secondi forse ce la faccio, adesso così per non perdere, perdere il flow, ci andiamo a sentire al volo una canzone e poi torniamo più tardi con un collegamento dalla Sicilia. Che non siamo riusciti a fare questa mattina, sempre inerente insomma alle lotte dei compagni, per far sentire insomma una voce che è diversa da quella appunto dello schierarsi o da una parte o dall'altra, quindi sempre con una voce molto molto critica. Radio Onda Rossa vi va a sentire una canzona e ci risentiamo tra 4 minuti e 40, ciao, dai, te l'avevo detto, sempre Onda Rossa, ma non me la facciamo 87 e 9, ciao. sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa, sempre io te l'avevo detto, sempre noi, sempre qua, sempre a parlare purtroppo insomma di guerra e di questa roba qua. Come vi avevamo anticipato qualche minuto fa, abbiamo in collegamento un compagno, non so se ci senti, ciao. Ciao a tutti. Ciao, e ti diamo il benvenuto sugli 87.9 della radio e insomma ti chiediamo di darci un po' un aggiornamento sulle lotte che state svolgendo in Sicilia. Beh, sono state due settimane piene di mobilitazioni qua in Sicilia. Siamo stati, come Movimento Non Muos, abbiamo promosso sabato scorso una manifestazione a Niscemi, in centro del paese. Niscemi è il paese che ospita il Muos, che per chi non lo sapesse è questo sistema di antenne satellitari con cui gli americani fanno la guerra elettronica, cioè si comandano da lì i droni senza pilota che poi vanno a fare o attività di ricognizione o attività di bombardamento. E questa domenica invece siamo stati a Sigonella, che è la capitale mondiale dei droni ed è una base americana, viene considerata appunto la più grande per i droni, e da qui appunto sono partiti i droni e stanno partendo anche i droni per la guerra in Ucraina, nel senso che tanti dei droni che la NATO sta utilizzando per le ricognizioni partono proprio dalla base di Sigonella. Sono state delle manifestazioni importanti. Oggi il corteo ha deciso di forzare anche i blocchi della questura, che ci aveva relegato molto lontani dalla base stessa, e quindi è stato anche da questo punto di vista interessante, importante e combattivo anche ribadire di prendersi un piccolo pezzo di territorio di tutto quello che le basi americane qui in Sicilia ci hanno tolto. Considerate che nel territorio siciliano, a parte Sigonella e Niscemi, ci sono i sommergibili con testate nucleari ad Augusta, che è un porto vicino a Siracusa, c'è l'aeroporto di Trapani Birgi, che è stato trasformato in aeroporto militare dopo che era un aeroporto civile, ci sono tutta una serie di siti di stoccaggio di armi nucleari nella zona del Palermitano. Insomma, insieme alla Sardegna abbiamo questo triste primato di avere una altissima militarizzazione dell'isola, che anche ha pregiudicato lo sviluppo dell'isola stessa. Considerate che per esempio Sigonella va in contrasto con l'aeroporto di Catania, e quindi per esempio il numero di voli che possono partire dall'aeroporto di Catania è limitato ed è subordinato a quello che succede nella base militare di Sigonella stessa. Per cui da questo punto di vista ci sembrava importante andare a ribadire la nostra contrarietà alla presenza delle basi e al fatto che l'Italia sia dentro la NATO. Un'altra cosa che abbiamo detto importante è che per noi questa è una guerra dei ricchi, cioè nel senso che siamo solidali con tutti i popoli in questo momento coinvolti nella guerra, il popolo ucraino e il popolo russo. Pensiamo che è una guerra per interessi capitalistici, che Zelensky non è sicuramente un eroe, ma è un interesse, cioè rappresenta gli interessi di oligarchie in Ucraina, che fanno gli interessi dell'Europa e degli americani soprattutto e degli USA, e Putin è il rappresentante dell'oligarchia russa. Per cui questa guerra di ricchi non ci interessa e non vogliamo neanche pagare i costi invece di questa crisi, che già stiamo cominciando a pagare in tutta Italia con gli aumenti che sono partiti e che purtroppo questo riteniamo che possa essere solo un assaggio. Per cui pensiamo che sia importante intanto combattere il nostro imperialismo, per cui combattere la presenza militare americana, combattere il fatto che hanno aumentato le spese militari, diventeranno 104 milioni di euro ogni giorno, cioè l'Italia spenderà 104 milioni di euro ogni giorno, e combattere il fatto che le grandi multinazionali continuano appunto a premere sulle casse statali e a togliere soldi alle spese sociali per poter giocare al ruolo di spartizione di materie prime e mercati. Assolutamente, ricordiamo anche che nell'arco dell'ultimo anno, comunque sempre nella stessa tendenza degli ultimi svariati anni, cresce la spesa militare proprio da bilancio, il 13%. Era stato già stanziato lo scorso anno su questa roba qua e continua sempre di più a crescere, quindi Non so, io ti volevo chiedere proprio, insomma, come sono andate queste giornate, nella fattispecie, proprio anche come, sia come risposta che come, diciamo, anche risposta della controparte. Ma devo dirti che la cosa positiva è sicuramente la risposta popolare, cioè nel senso che poi come movimento, ma non solo, anche le altre compagne e compagni che lavoriamo nei quartieri popolari delle città di Catania, Palermo, Ragusa e Messina, la cosa che appunto notavamo e che ci faceva molto piacere era quella dell'appoggio popolare, che in questo momento c'è il rifiuto della guerra e il rifiuto della guerra dei ricchi. L'altra cosa che comunque potrebbe essere positiva a lungo andare è lo spartiacque che si crea anche nella sinistra, cioè c'è ormai un pezzo di sinistra che a parte il PD chiaramente, che lo consideriamo il nostro nemico principale, ma anche in pezzi di sinistra che con queste posizioni un po' ondivaghe che si distaccano da quello che invece deve essere un no netto non solo alla guerra, ma alla guerra bisogna aggiungere anche chi fa la guerra e per chi è la guerra, perché se no non riusciamo a capire bene chi è il nostro nemico. No, assolutamente, ma è quello che proprio stiamo provando. Infatti non so se tu stavi ascoltando la trasmissione prima del tuo intervento, però è proprio quello di cui stavamo parlando. Insomma, stiamo facendo un po' un resoconto del primo mese di guerra, purtroppo, e stiamo anche vedendo un po' quali sono, a mente diciamo un po' più fredda, diciamo le mosse che vengono messe in campo. Io penso che il continuo, diciamo, di questa nostra mobilitazione deve appunto andare in quest'ottica, deve andare nell'ottica che quello che magari una volta se poteva sembrare esclusivamente un no ideologico a una presa posizione oppure una presa di posizione prettamente pacifista sul discorso delle armi e del militarismo, oggi purtroppo lo stiamo veramente pagando sulla nostra pelle. Non è più un modo di dire, non è uno slogan, ma è, no, esatto, esatto, è quello che ci stanno facendo vivere, per cui è importante che l'opposizione alla guerra diventi un'opposizione popolare, e per cui anche il nostro appello ai sindacati di base a sostenere le lotte che per esempio hanno fatto i compagni a Pisa o quello che fanno da tanto tempo, certo, e stanno continuando a fare i compagni a Genova sul porto, cioè dobbiamo anche mobilitarci come lavoratrici e lavoratori rispetto a questa cosa della guerra, proprio perché ci tocca la tasca, ecco. Sì, ma assolutamente ci tocca la tasca, e come insomma emerge da quello che dicevi tu prima, insomma, se è vero che da una certa parte di sinistra, che può essere definita un po' più radicale, si comincia a parlare di questa roba, da invece dalla parte quella invece diciamo quella un po' più democristiana, quella del PD, insomma, è proprio il fulcro della problematica, no? Nel senso, noi qua ne parliamo spesso ben volentieri male del PD, e sarebbe proprio adesso forse il momento di fare una bella chiamata nazionale con una manifestazione proprio in opposizione a questo tipo di dinamiche, quindi che si porterebbe appresso anche, insomma, anche l'analisi su tanti sindacati che insomma gli vanno appresso a questi, quindi nel senso, oggi stiamo provando a fare un po' di chiarezza in mezzo a questa roba, quindi ti ringraziamo del contributo, e i microfoni della radio per voi sono sempre aperti, quindi sentiamoci e continuate ad aggiornarci sulle lotte che portate avanti. Grazie compagni e compagni, speriamo di sentirci presto, perché ci saranno altre mobilitazioni, per cui vi ringraziamo dello spazio che ci date. Grazie a voi. Grazie a voi. Siamo ciao. Sempre qua. Ciao. Eh sì, siamo terra di conquista noi, in realtà, essendo stati vittime del fascismo all'epoca, questa cosa, ecco, ce la siamo portata un po' dietro. Si ripercuote ancora poco, oggi, poco. Insomma, diciamo che questo prezzo da pagare ormai ha pure un po' rotto le cose dette, per dirla proprio alla siciliana, quindi voglio dire, Ecco, anche da qui parte, come diceva il compagno, la guerra alla guerra, perché quello che bisogna fare sì, ma c'è da dire che comunque quello che, cioè nel senso, esportiamo, cioè, partono... ma come stato comunque esportiamo morte da sempre, no, assolutamente, cioè, nel però, senso questa però, cosa qua non è, però il compagno è stato molto molto calzante, perché è sceso nel quotidiano, cioè da lì, dal MUOS vengono controllati i droni che fanno la guerra, e quindi delle azioni che vanno a contrastare fisicamente la presenza di queste infrastrutture è l'unica guerra necessaria, cioè appunto la guerra alla guerra. Quindi sì, è vero, noi siamo da sempre all'avanguardia nell'esportazione della morte in generale, che sia di natura militare, ma anche Di mancata assistenza, anche, cioè, oppure esatto, di finanziamento di lager in Libia, cioè, ma quante ne vuoi? Assolutamente, quindi è certo, abbiamo una lunga storia di guerra fondai e no, cioè, ma proprio di morti sulla coscienza come stato, soprattutto quando l'attività di militarizzazione limita l'attività civile, no? Come ci diceva lui, per esempio, che è questo, gli però voli, ecco, io a questo punto, insomma, un attimino, l'aeroporto di Catania. Certo, effettivamente dice, l'aeroporto di Catania non fa abbastanza voli rispetto a quelli che potrebbe fare. La domanda che mi viene a fare, da fare a me, che sono lo stronzo della questione, è quindi che dobbiamo fare? Cioè, voglio dire, deve fare più voli l'aeroporto di Catania? Cioè, no, lo sviluppo della Sicilia andare... passa da questo? Non credo, no, io non sono siciliano, bisognerebbe non lo so, andare però... verso una risoluzione definitiva, esatto, di questo, cioè, il problema un è... po' come si stava facendo verso la Sardegna, no? Sì, cioè, sarete... il fatto di lasciare le basi, il compagno doveva essere sintetico e ci ha detto pensate che semplicemente solo l'aeroporto di Catania non fa quello che potrebbe, però ecco, io credo che come diceva lui, lo sviluppo dell'intera Sicilia, ma anche di tutta la questione, è fuorviata, diciamo, è traviata dalla presenza delle basi militari. Poi il compagno ha detto un'altra cosa, giustamente si è concentrato l'Italia fuori dalla NATO. Noi più volte abbiamo parlato di questo argomento, purtroppo forse potevamo essere un po' più chiari anche dal punto di vista nostro. Sì, purtroppo cambierebbe molto poco in realtà se l'Italia uscisse dalla NATO in linea di massima. Cambierebbe poco per le sorti di tutto il pianeta e anche per le nostre. Cambierebbe esatto, molto esatto. poco, perché io ci scommetto tutti i miei dread che qualora anche l'Italia non facesse più parte della NATO, il MUOS starebbe sempre là. Sì, e la guerra le comunque andrebbe avanti. Esatto, no? I sottomarini nucleari. La guerra andrebbe avanti ovunque, esatto. I sottomarini nucleari. Esatto, ovunque. Le sue basi. Che perché non è l'Italia che determina l'equilibrio all'interno della NATO, non diciamo cazzate. È sulla produzione di armi. Certo che no, insomma. Però diciamo che nel senso, all'interno della NATO no. Però quindi noi diciamo no alla NATO. No, quello che voglio dire è scusate, no, le armi. Cioè nel senso, una cosa che dobbiamo continuare a sottolineare è che non, è vero che magari non siamo molto influenti sotto il punto di vista politico all'interno di queste organizzazioni, ma manco militare, ma, no, ma strategico di posizionamento sì, però già quello sì, siamo il porto, giustamente la Sicilia, il compagno sottolineava che la Sicilia è piena di basi e di come tutta no, l'Italia ma tutta l'Italia, ce l'abbiamo 120, ma perché siamo un porto in mezzo al Mediterraneo? No, aspetta, dove li detto una cazzata, ci abbiamo 100, no, non è vero, ho detto una cazzata. Cioè abbiamo 120 testate nucleari in Italia. Non lo so il numero delle testate sì, nucleari. Sì, aspetta, non te lo non dico. Voglio dire cavolati, ci abbiamo però... sì, 120 ce ne abbiamo. No, quello che so per no, certo le strutture è... sono 120, scusa. Alcune decine di testate nucleari, quello decine. Che so però 120 esatto, le basi. Sembra, 100, tanti. 100, però quello 100. Che so per certo è che la Russia di testate nucleari ce n'ha 4.463. Quindi quello che noi dobbiamo temere non è appunto pensate, l'utilizzo delle armi atomiche, raga, perché questo è il problema. No, ma certo, ma come dicevamo prima, infatti, non bravo, faccio, aspetta, c'hai ragione. Bravissimo. Io direi pure una cosa, premesso che ce ne vogliono 300 di bombe per portare la Terra al collasso definitivo. Perché una cosa infatti quindi che ci dobbiamo... devi fare con 4.000, che tanto ne bastano 300. Ma per che ci dobbiamo fare? In maniera definitiva. che ci dobbiamo fare? È chiaro che ci dobbiamo fare in un meccanismo in cui le sorti dei, dei rapporti di forza sono generati da chi c'ha la bomba più grossa, tra virgolette, ossia di chi c'ha la cosa che è più avveniristica, cioè più tecnologicamente avanzata, eccetera eccetera. Visto che il gioco, tra virgolette, appunto, è quello di chi c'ha la bomba più grossa, avercene 4.000 non è niente male. Infatti, sì, infatti, questo fa il paio con quello che dicevamo all'inizio, cioè che lo scenario di guerra si è molto inasprito, nel senso che in questi ultimi giorni c'è stata una crescita della tensione militare. Attenzione, è verissimo che si è inasprito, ma dobbiamo sempre continuare a sottolineare che stiamo parlando, è per questo che stiamo facendo questa cosa qua, dei 100 anni fa, ancora di una guerra degli inizi del Novecento, perché qua le bombe al bario ne sono state usate per fortuna ancora poche. Ecco, infatti tu i parli... missili, cioè nel senso, ancora stiamo facendo una guerra rudimentale. Esatto, ricordiamo che la Russia, purtroppo, ricordiamo, non è un bel ricordo, però la Russia detiene questo tipo di armi, anche armi termobariche, che sono armi appunto che appunto, come dice il nome, termobariche, quindi utilizzano la pressione termica per scomporre i corpi. Sì, sì, quindi sono cose assurde, però purtroppo invece la Russia ha incrementato la, diciamo, ha alzato l'asticella del livello della guerra, purtroppo, utilizzando proprio ieri questi nuovi missili, insomma, ipersonici, che sono un problema enorme perché non sono intercettabili dalla contraerea avversaria. Che, se vi ricordate, è anche un problema di quelli di cui ci parlava Giancarlo 2 settimane fa, sì. Cioè la difficoltà nell'intercettare appunto queste nuove tecnologie, no? Si parlava dei droni e del diciamo del lavoro che stavano facendo per renderli più potenti, in maniera tale di portare bombe più potenti, in maniera più meno diciamo appariscente in giro, sì, per, infatti, cioè, si ragionava sul fatto che si sperava che non venissero usate queste, esatto, armi, invece, mentre invece questi già stanno a pensare a migliorarle, capito come, cioè, figura, nel senso, il fatto che ancora siamo così, ripetiamo che probabilmente purtroppo nella prossima settimana quella parte di Ucraina che è bagnata dal mare verrà, diciamo, conquistata dalla nuova Unione Sovietica, come diceva il contributo che abbiamo passato, insomma, vabbè, insomma, sta roba qua, ognuno il suo. Ricordiamo che allo 06 49 17 50 potete intervenire e dirci come la pensate. Noi ci stiamo provando, questa io te l'avevo detto, ci andiamo a sentire un'altra canzone e ci vediamo, anzi ci sentiamo. Ecco, di che vabbè, ci sentiamo. Che vedremo. Ci sentiamo tra poco, ossia tra poco meno di 3 minuti, perché vi facciamo sentire Dubbiosa Collective con Bella Ciao, perché comunque un'altra cosa di quelle che ha fatto ridere è che a un certo punto è uscita Bella Ciao modificata da neonazista che fa il segno del taglio sotto al collo, esatto, che ti dice così alla gola, sì. Fa effetto. Quindi niente, ci andiamo a risentire, faccio pure mini pull-up. Ci andiamo a risentire. E soprattutto, vedi qual è il valore vero di questa canzone. Senti, sì. And now from Seattle, you will hear Gino. Ima al samo izolacijna u Ameriki. Ima, bez beli. Dje nema. Hajmo svirat! Una mačina mi son zveljato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh, partigiano, portami via. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, oh, partigiano, portami via, che mi sento di morire. Andiamo! E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, mi seppellire la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire la sua montagna sotto l'ombra di un bello fior. Serrano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Smrt fascismo! Per i nostri amici in Italia. Sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa, sempre Io te l'avevo detto. Ricordiamo appunto che questo è un canto antifascista. Antifascista. E i fascisti che cantano questa roba, gli si deve seccare la lingua. Però ha fatto, cioè a me non è che mi ha fatto ridere il fatto no, che gli se ne deve cascare. No, aspetta, mi sono espresso male. A me non è che mi ha fatto ridere che i fascisti che hanno cantato sta roba, ma ha fatto ridere il fatto che i compagni in Italia hanno pensato che i fascisti che cantavano sta roba in realtà fossero antifascisti. Ma la colpa di tutto ciò sei di che cos'è? Della casa di carta. Cioè è un po' come quelli che pensano colpa che della casa di carta. La rivoluzione in Colombia è stata fatta. No, questa è colpa della casa di carta. Vabbè. È come tutta no, la roba. No, lì c'è una riflessione da fare. Che in quel video dove la secca lì faceva la cantatina di sta canzone. C'è proprio secondo me una riflessione da fare, hai capito? Cioè che questa si sente resistenza in qualche maniera, capito? E la assimila a quella che fu la resistenza all'antifascismo. Questa cosa è vabbè, c'è da dire che comunque nel senso adesso a vederla da qua, cioè nel senso a me quello che mi disturba non è tanto il fatto che lì cioè nel senso mi disturba assai in realtà però cioè, mi disturba molto di più il fatto che qua tu leggi su Facebook che c'è una tipa che ha fatto bella ciao e tu dici dai da paura questa senza minimamente approfondire questa qua è una questo, cosa che bravissimo che mi ha fatto l'idea perché come dicevamo 2 settimane fa insomma noi da qua col culo comodamente poggiato su divani e sulle poltrone insomma ci abbiamo il lusso e ci abbiamo anche il dovere insomma invece di provare ad analizzare questa roba qua insomma in un modo diverso da quello che ci viene proposto da chi insomma ci fa un'informazione decisamente scadente. Non è il caso di quella questo è il caso insomma di quello di Onda Rossa per capirci insomma andiamo avanti con la puntata, questa io te l'avevo detto e vi facciamo sentire un altro contributo del laggeggio che ci è stato recapitato dal futuro quindi vediamo se riesco a farvelo sentire vediamo la campagna di invasione. Per giustificare l'operazione militare speciale davanti alla sempre più pressante opinione pubblica interna, Putin dovette ricorrere allo stratagemma politico sulla presenza di neonazisti all'interno del governo ucraino. Questo a suo avviso avrebbe dovuto giustificare il barbaro attacco a Kiev. La fiera resistenza ucraina invece si oppose ai piani di conquista di Putin, combattendo strada per strada, impugnando le armi inviate dall'amico Occidente. Nel frattempo gli stati membri dell'ex Unione Europea combattevano la loro guerra senza armi, a suon di sanzioni pesantissime che misero in ginocchio la già traballante economia russa. comunque guarda, questo libro è schifosamente di parte, è un po' fazioso in effetti. No, è terribilmente fazioso, ma io mo... però ci sono, cioè, tanta, davvero molti... la storia è andata così, nel senso, no Giacomo, la storia probabilmente non sta andando così, la scrivono i vincitori la storia, quindi chi avrà vinto? Chi l'avrà vinto, nel senso, vedremo nelle prossime puntate, cioè nel senso, questo è chi vivrà vedrà, esatto, cioè nel senso, questo è quello che ci è arrivato a noi, però secondo me dal tono non è che ha vinto proprio Putin, secondo me. E a me mi è sembrato un po' un tono... Vabbè, comunque si parla di ex Unione... No, si parla di ex Unione Europea. Di Unione ex Sovietica. NATO. Di nuova Unione Sovietica. Di nuova Unione Sovietica. No, però tutto sommato uno scenario da contemplare, effettivamente. Quanto è distopico? 0649 per gli ultimi 40 minuti di cazzeggio assoluto che io te l'avevo detto. Abbiamo finito quasi le cose, non è vero. Adesso dobbiamo io parlare... Io personalmente so per i Soviet, quindi effettivamente per me un ritorno alle origini sarebbe auspicabile. Mo' una nuova Unione Sovietica, non so come la intende nuova Unione Sovietica, se ci sta Putin che fa lo Stalin della situazione non ci interessa, se ci sta Stalin che fa lo Stalin della situazione restiamo un attimo sul pezzo e andiamo avanti con la puntata. Sta a fare la vignettina, era pure ora che Simone cominciasse a fare le vignette, visto che c'ha dote. No, però qua di solito quando Simone parte la vignetta parte pure, scatta pure la diretta Facebook. Vabbè, magari cosa che dobbiamo fare? Chiudere il canale Telegram che abbiamo aperto e aprire il gruppo. Ah, è vero, avevamo un canale Telegram. Lo vogliamo fare adesso? No, lo facciamo adesso. No. Quello che è vogliamo stato fare un adesso. Farlo in diretta. No, non è vero. No, abbiamo avuto subito due risposte. Poi non abbiamo caricato il podcast, quindi non ci ha sentito nessuno. Fallimento, me l'ho scordato. Comunque adesso ve lo chiudiamo e ne apriamo un altro nelle prossime puntate, infatti. Certo. E comunque no, quello che volevamo continuare, insomma, a chiacchierare su questa in questa domenica pomeriggio insieme a voi, insomma, questa cosa qua delle sanzioni che sono state fino adesso, diciamo, a quanto pare la risposta più risolutiva che è stata fatta da tanti governi, oltre appunto a quella di inviare le armi. Quindi inviamo le armi per una guerra che probabilmente, così, lasciatemi dire con i piedi leggeri, ci siamo un po' acchittati da soli per sganciarci dal dare tutti quanti questi soldi alla Russia e al blocco orientale, e quindi ci sganciamo da questa roba, ci si acchitta la guerra sopra e che succede? Che succede? Che succederà? Chi lo sa? Chi vivrà? Vedrà. No, vabbè, noi comunque ribadiamo. No, nel senso, le sanzioni vanno. Cioè, nel senso. Mettere le sanzioni a questo punto. Che cosa significa per noi mettere le sanzioni? Allora, automaticamente significa boicottarsi dall'interno in un momento di crisi. Cioè, è una cosa che è bellissima. Se la guardi con un passo indietro. Infatti, sui libri di storia questa roba non ci sarà scritta. Sì, infatti, si rifletteva questa mattina proprio su questa singolare questione. Queste sanzioni. No? Dunque, l'Occidente mette le sanzioni alla Russia. Non facciamo nient'altro da mesi. No, da un mese. Che sanzioni mettiamo noi? Allora, tiriamo fuori la Russia dal sistema SWIFT, che è appunto il sistema di messaggistica. Ok, tiriamo fuori la Russia dalle carte di credito, niente McDonald's, niente Pornhub, niente di niente. E invece la Russia a noi ci fa le sanzioni pure. Che sanzioni ci fa la Russia a noi? La Russia a noi ci toglie il gas, ci toglie il titanio, ci toglie... Praticamente la nostra vita quotidiana viene stravolta da quello che la Russia può combinare a noi. Mentre invece, purtroppo, le sanzioni non sono così terribili per la Russia, perché al di là delle grandi città russe, dove effettivamente la vita è molto simile a quella occidentale, quindi carte di credito e tutto il capitalismo rampante, nella stragrande maggioranza del territorio russo, e quindi per la stragrande maggioranza, diciamo che gli oligarchi ci passano una volta all'anno, esatto, vabbè, certo, però e quindi la grande base del corpo votante di Putin, effettivamente di queste misure che sono state adottate, di queste sanzioni, non gliene può fregare granché, perché che nelle steppe russe, nei grandi spazi, nelle grandi diciamo non praterie, perché i praterie ce ne stanno poche, però nei grandi spazi russi effettivamente queste sanzioni contro la Mastercard e contro Pornhub lasciano il tempo che trovano effettivamente, e neanche del sistema Swift gli interessa granché ai villaggi della Siberia, mi sembra di aver capito. No, ma nel senso, a me mi sembra di capire che quello che interessa alla Siberia, appunto al proletariato russo, insomma, è relativo. Ma il proletariato russo ha semplicemente fatto una rivoluzione nel 17 e... No, dico adesso, in questo momento oggi. Cioè, nel senso, mi sembra molto, molto di più invece che... Sono, insomma, tutti con Putin, raga, l'opinione pubblica russa sta con Putin. È chiaro, su questo non ci piove, però quello che voglio dire è che arrivare a questo punto... Mi viene un po' da dire che era quasi prevedibile il fatto che un personaggio come Putin, insomma, prima una guerra all'Europa gliela doveva fare. Ma io credo che invece sì, è vero, probabilmente dal nostro punto di vista, io te l'avevo detto, questa potrebbe essere una come dire, una buona situazione, nel senso che certo ci fa gioco a noi un personaggio come Putin. No, non è che ci fa gioco, nel senso... pazzo, però... Cioè, la cosa triste in realtà è che... Poi non è ma appunto c'era... Per niente. C'era una compagna che ci faceva riflettere su questa narrazione appunto mattofobica che ci sta su Putin, no? Questa cosa di dire Putin è matto, Putin è pazzo, Putin è qua e là, cioè come se... Invece Zaleschi invece è uno che sembra molto lucido. A parte questo, ma... utilizzando appunto questo linguaggio sui matti, sui pazzi, come se fosse una cosa... Certo, assolutamente. È una cosa oscena, è una forma di discriminazione verbale, insomma, alla quale bisogna stare molto molto attenti. E soprattutto Putin non è pazzo, cioè ribadiamolo molto chiaramente, perché basta. No, è solamente un pezzo di merda. Questo sì. È solamente un pezzo di merda, è un fascista che si muove con termini e con anche con la retorica, populista, fascistoide. Stiamo a parlare, insomma, di uno nazionalista. Questa roba qua, insomma, c'è nato, cresciuto. Ma l'abbiamo detto più di una volta da questi microfoni, che questi sono due nazionalismi che si stanno scontrando. Cioè, non facciamo finta che questa è la guerra del proletariato contro. E noi di detto ci aggiungiamo che si stanno scontrando per appunto il vil denaro, e in qualche modo, insomma, quello che sarà per i prossimi anni, perché ricordiamo che quello che viene scritto poi, insomma, è quello al quale ci ritroviamo legati nel corso della storia. Quindi, insomma, in linea di massima, noi siamo sempre più convinti nel ribadire la nostra contrarietà a qualsiasi guerra imperialista e del potere, insomma, e soprattutto in un momento come questo, dove il popolo ucraino è in mezzo a questo grande scontro tra potenze, tra blocchi, e insomma ci stanno, come dicevamo anche prima, ci stanno rimettendo gli ultimi, come sempre. Ricordiamo che, insomma, il numero enorme di migranti, insomma, anche se, di sfollati dall'Ucraina, insomma, che ha superato di gran lunga i 3 milioni, quindi insomma più che sfollati, di sfollate. Sì, esatto, perché appunto ricordiamo che vige la legge della proscrizione, quindi dai 18 ai 60 anni è vietato l'espatrio. Sì. Quindi non si può uscire dall'Ucraina per i maschi tra i 18 e i 60 anni che abbiano meno di 3 figli. E anche se sei, insomma, di un colore che non è proprio quello del latte, insomma, potresti avere qualche problema. Vabbè, no, scusate, effettivamente sì, si sono creati problemi con le persone di pelle nera, e effettivamente anche ad esempio degli studenti che stavano in Ucraina, a Kiev, hanno incontrato enormi problemi anche e soprattutto per il colore della loro pelle. Qui abbiamo la regia. Sì, vabbè, c'era pure Salvini che faceva la regia, che so. C'era il meme che girava con Peter Griffin che alla frontiera controllava il colore dei, delle persone che potevano entrare o meno, e su per giù. È quello che diceva Salvini. Scusate, non gli prende bene. Scusate, non singhiozzo. È chiaro che c'è singhiozzo. Non prende bene, Matteo. Scusate, non gli prende bene. Guarda, che posso fare addirittura il. Esatto, no, è orribile questa cosa. C'è la regia col singhiozzo, così t'empari. Così t'empari. Così te bevi il succo di frutta la prossima volta. E... Fai ruttino. Possibilmente mamma. Un po' più là. Esatto. Che a me mi aspetta. Quindi, questa puntata com'è andata a finire? Siamo arrivati alla fine oppure che dice la scaletta? Dai, noi che siamo. La scaletta dice che dovremmo parlare di. Di come andrà a finire. Di come andrà a finire, come andrà a finire. Noi questa mattina un pochettino l'abbiamo, ci siamo un po', diciamo, abbiamo tracciato un po' probabilmente quello che potrebbe succedere, o meglio, quello che speriamo che succeda, perché appunto, come dicevamo prima, qualora l'esercito russo dovesse riuscire a chiudere questo spazio fino a Mariupol, e poi magari fino ad Odessa, probabilmente si arriverà ad una, quantomeno ad uno stop, ad una pausa, un cessate il fuoco, per capirsi in maniera un po' più di solito quando si è già in momenti di accordi, c'è sempre un aumento dell'escalation militare e dell'intensità del conflitto, proprio perché insomma si vuole arrivare all'incontro con più potere contrattuale. Chiaramente in questo caso a Putin serve una vittoria lampante, quale sarebbe la presa di Mariupol. Serve più che altro anche a livello interno, perché l'opinione pubblica russa inizia a rumoreggiare in maniera un po' più, al di là delle manifestazioni che abbiamo visto e anche seguito. Però insomma, Putin deve giustificare questa guerra con l'opinione pubblica e quindi deve arrivare a delle vittorie. Probabilmente la chiusura dell'accesso al mare per l'Ucraina potrebbe essere uno degli scenari di interruzione momentanea del conflitto. Si spera. Per il resto, insomma, sembrerebbe che il nostro caro Matteo non riesce a trovare una via d'uscita al suo povero singhiozzo. Però noi siamo. Esatto, però riesce a mettere comunque contributi. Noi siamo per la libertà pure del singhiozzo. Esatto. Cioè, e allora vai, me blocco. Sì, singhiozzo libero. Dai, forse singhiozzo libero. Però dalla radio effettivamente è proprio. È terribile, è la prima volta che mi capita. Poverino. La prima volta che mi capita. Non sono riuscito a bloccarlo. Niente. Va bene, noi quindi a questo punto penso che abbiamo concluso, no? No, quello che volevo dire è che comunque. È vero che sembrerebbe che tutto quanto si possa risolvere nel giro di una settimana, però è pur vero che potrebbero invece peggiorare moltissimo le cose. Potrebbe peggiorare se Putin decidesse di non fermarsi a Mariupol. Esatto, perché comunque di diciamo che suona male, la situazione suona male. Ci andiamo a sentire la canzone e tra poco ci salutiamo, sempre te l'avevo detto, sempre da Radio Onda Rossa 87.9. Dai, a dopo, sempre quel singhiozzo. Speriamo che dopo riesco a non averlo più. People, you take it too easy, like on a play with a ball. Talk you attack so easy. While them ones start a war, so me beg you no stop chatting nothing. Cause you no see what I want. The system just stop working, and them ones start a war. Ram bim bim, ram pam pam. This is the sound of a war. Ram pam pam, ram pam pam. So we wake up in a war. Ram bim bim, ram pam pam. This is the sound of a war. Ram bam bam, ram bam bam. Whoa. As that time come, I will not too far. When anyway we don't look like a gold war. But if I feed them all, it a be a five stars. Some are not pre-peace, but some are pre-war. Me bone Donald Trump and me bone Clinton. Bone Rothschild, bone Dinator. Me bone Rockefeller, me bone the New Con. No matter if a white or if a black man. Them man them worst fake like silicon. And them vision is not with vision. Inside jobs are gonna cause division. Me no war about them ambition. Ram bim bim, ram pam pam. This are the sound of a war. Ram bim bim, ram pam pam. So we wake up in a war. Ram bim bim, ram pam pam. This are the sound of a war. Ram bim bim, ram pam pam. Whoa, yeah, yeah. Minister, don't take with you fool. You think we don't know the thing where you do. Enough time you don't mind if people are cry. Long time no tears, no drop from your eyes. And when feel we poor life end. Go on like you're sad but you only pretend. In a reality you don't give a damn. That's why mister, me and you could never hang. You sing la la la la. Me hear you sing now your room you sing la la. Mister you a whistle cause you start a next war. Ram bim bim, ram pam pam. This here the sound of a war. Ram bim bim, ram pam pam. So we wake up in a war. Ram bim bim, ram pam pam. This here the sound of a war. Ram bim bim, ram pam pam. Them are the war superstar. Rieccoci di nuovo in voce gli 87.9 di Radio Onda Rossa. Io te l'avevo detto, noi siamo ecco sì esatto, Consiglio che non passa come esatto, potete siamo tutti, ben vedere. Siamo tutti in chiusura effettivamente noi. Beh, però volevamo insomma sottolineare quello che ci aveva fatto. Dai, però sta dieta difficile. Allora ditelo voi però, ci ha parlato Terter. Al telefono mi fa parlare, mi fa ah sì esatto, c'è questa, cazzo, c'è giustamente il nostro segretario generale della CGIL che ci ha inviato, che ringraziamo per i contributi ovviamente, che ci tantissimo, che ci aggiorna costantemente e ci ha dato questa notizia sul messaggero. C'è un flash del messaggero online come ama, che non è più London Calling esatto, ma bensì Kiev Calling. C'è la canzone, mi stai dicendo che la canzone non si chiamerà più, fatta da un architetto. Chissà sì, che cosa ne pensano i Clash di questa cosa. Vabbè, non lo so. Vabbè. Io allora a questo punto, questo succede perché il nostro segretario generale è un accanito e appassionato lettore del Messaggero. Che voi dovete sapere che è menzognero. Menzognero è fondamentale perché lui, giustamente, mi faceva notare pure l'altro giorno. Dice, tutto questo perché tu non sei un appassionato lettore del Messaggero, non le sai queste chicche. Perché solo il Messaggero riesce. Che ce fai con l'ercio? Cioè, l'ercio è un come dire, una poesia. Poesia. È assoluto comunque realismo. Io penso, raga, colgo l'occasione per salutare un Simone po' se ne va, Simone se ne va, che devo andare a lavorare, se no non faccio tempo. Il lavoro chiama e dai forte, resistete tutte e tutti, buona settimana resistente. Perché sì, noi dobbiamo andare pure a lavorare, vedi com'è, perché lavoriamo, mo mettiamo un po' come la radio non ci paga. È una vita che siamo contro sta cosa, però ci dobbiamo andare. Cioè tutti... Prima tutti i gradi saranno il banana che più esordi. Certo, esatto. Qualcuno che mi sembra pure giusto, che mi sembra pure giusto. Da qualche parte devono annasti i soldi, insomma, queste sono. Dai, va bene. Allora, ciao a tutte e tutti, dai forte. E ricordatevi di sostenere la radio e ricordatevi di comprare scarceranda e di venire alle iniziative della radio. Ricordiamo che giovedì infatti abbiamo un'iniziativa, vi facciamo sentire forse uno spottino. Ricordiamo che ci vediamo. Sì, allora presentala tu l'iniziativa. Lo spottino senza singhiozzo. Cioè tu lo sai che cosa si fa sabato? No, cioè, fai presenta. No, ma tu lo sai che cosa ci sta giovedì? Giovedì c'è questo film con la Balzerani, insomma, la compagna Balzerani. La Baldini. Ah, scusami, scusatemi, compagna Baraldini, vabbè, mi sono confuso. Compagna Baraldini, e ci sarà la proiezione al Forte, sì, Prenestino, giusto? Sì, del film Finally Got the News. Ossia, alla fine ce l'ho fatta. Ce l'ha fatta! Alla fine, la proiezione di questo film, che è di Stuart Bird, di René Lichman, bella Simo. Insomma, parla della Lega dei Lavoratori in America, neri rivoluzionari, e è una cosa molto interessante. Seguirà anche un dibattito. C'ho sempre questo singhiosso che voi mi ride, però è tipo rido per altro. È tipo una cosa terribile. Ci andiamo a sentire lo spottino che racconta bene di che cosa stiamo a parlare. Sembra, esatto, sblocca il mouse. Lo spottino senza singhiozzo. Lo spottino senza singhiozzo. Maledetti. Chissà se parte lo spottino senza. Giovedì 24 marzo, a partire dalle 21, al centro sociale occupato e gestito Forte Prenestino a via Federico Del Pino, a sottoscrizione di Radio Onda Rossa, proiezione per la prima volta in Italia del film documentario Finally Got the News. Il film verrà proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano, dura 55 minuti, con tutte immagini di repertorio del 1970 della lotta dei lavoratori neri rivoluzionari all'interno e all'esterno delle fabbriche automobilistiche di Detroit. Un documento eccezionale sul ruolo svolto proprio dai black workers nell'economia americana. Viene anche esplorato il sistema educativo di tracciamento per i giovani, sia bianchi che neri, il ruolo delle donne afroamericane nella forza lavoro e le relazioni tra i lavoratori bianchi e neri. A presentare il film ci saranno Silvia Baraldini e John Sandholm, professore di Cinema Studies all'Università di Stoccolma. Giovedì 24 marzo, a partire dalle 21, al centro sociale occupato e gestito Forte Prenestino a via Federico Del Pino, film a sottoscrizione di Radio Onda Rossa. Finally Got the News. Parole, non dite che non lo sapevate. Io ve l'avevo detto che c'è stato il film. Esatto, l'avevamo detto, quindi venite al Forte giovedì 24 dalle 21 in poi. Noi vi salutiamo. Un abbraccio in particolar modo a chi non gode della libertà personale e ci ascolta da dentro. Speriamo che, insomma, presto ci ascolterà da fuori. Presto ci sentiamo da fuori. Assolutamente. Dai, è forte. Dai, te l'ho detto, è tutto. Ciao a tutti e tutti. Una special request da casa come canzone di saluto. Dai, te l'ho detto, è tutto. Ci sentiamo settimana prossima. Dopo ci stanno lì dare la presa in replica. Quindi restate all'ascolto, ci sentiamo domani con la segna stampa. Ciao. Il nemico marcia sempre alla tua testa. Ma la testa del nemico dov'è? Che marcia alla tua testa. Ma la testa del nemico dov'è? Che marcia alla tua testa. Ma che nebbia, ma che confusione, che aria di tempesta. La socialdemocrazia è un mostro senza testa. Ma una testa oggi che cos'è? E che cos'è un nemico? E una marcia oggi che cos'è? E che cos'è una guerra? Si marcia già in questa santa pace con la divisa della festa. Senza nemici né scarponi e soprattutto senza testa. di farfalle. Il nemico marcia in testa a te, ma anche alle tue spalle. Il nemico marcia con i piedi nelle tue stesse scarpe. Quindi anche se le trasci non le levi, è sempre dalla tua parte. La socialdemocrazia è un mostro senza testa. La socialdemocrazia è un gallo senza cresta. Ma che nebbia, ma che confusione, che vento di tempesta. La socialdemocrazia è quel nano che ti arresta. Più del vento sarà la mia bandiera forte, più del vento sarà, più del vento. Radio Ponderosa, and stay in movimento, con la radio. Likewise, tutti i martedì dalle 19 alle 20 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Dal 14 novembre. Onda Rossa 87.9. Sitting by the rivers of Babylon, wondering how to sing my song. Yeah, as the far I say again, Radio Onda Rossa 97.9. Yeah. Here on Silk in your studio, yeah, yeah, we are having a nice time. Radio Onda Rossa 97.9, we are having a nice time. Sabato 26 marzo, Firenze. Insorgiamo con i lavoratori GKN contro tutte le delocalizzazioni, per la giustizia climatica e sociale, i diritti civili. Convergere per cambiare i rapporti di forza nel paese. Insorgiamo per questo, per altro, per tutto. Hey, you. I am Radio Onda Rossa.